Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. È in corso la campagna nazionale di sensibilizzazione per la prevenzione e la ricerca sulle malattie cardiovascolari promossa dalla Fondazione per il Tuo Cuore dei cardiologi ospedalieri. In linea a Obiettivo Salute il professor Michele Gulizia, presidente della Fondazione per il Tuo Cuore e direttore della cardiologia dell'ospedale Garibaldi Nesima di Catania. Professor Gulizia, grazie per essere con noi, buongiorno. Grazie a lei, buongiorno. Professor Gulizia, quando si parla di cuore, parola d'ordine, prevenzione. Assolutamente sì. Oggi assistiamo ancora al fatto che in Italia ci sono più di 240.000 decessi per malattie cardiovascolari ed è un dato allarmante che riguarda tutti, uomini, donne, bambini, anziani, giovani, e noi possiamo assolutamente ridurre questa mortalità almeno del 70% con una sola parola: prevenzione. E se le facciamo diventare due, diventa prevenzione cardiovascolare, perché prevenire è molto semplice: basta cambiare minimamente le abitudini di vita sbagliate e fare un'alimentazione sana, riducendo l'apporto di grassi, colesterolo e prediligendo quella dieta salvacuore che oggi risulta assolutamente vincente. E non solo l'ipercolesterolemia, ma anche l'abitudine tabagica, cioè il fumo di sigaretta. Bisogna ridurre l'obesità e quindi la sedentarietà e favorire l'esercizio fisico in tutte le sue forme: mezz'ora al giorno a casa, in palestra, per la strada, nei parchi, oppure 45 minuti 2-3 volte la settimana bastano per migliorare lo stato cardiovascolare di tutti noi, giovani, uomini, donne, anziani e bambini. Nel corso della campagna torna il consueto appuntamento di cardiologia aperta, in cui oltre 170 cardiologie distribuite sul territorio nazionale apriranno le porte al cittadino, che potrà sottoporsi a screening cardiologici personalizzati e gratuiti. Professor Gulizia, ci racconti di più. Banca del Cuore è il nostro progetto di punta. Molte delle cardiologie, di queste 170 cardiologie aderenti, svolgono Banca del Cuore con il rilascio gratuito della Bancomat, questa card che permette di custodire sempre 24 ore al giorno disponibile il proprio elettrocardiogramma, i valori della pressione e tutti i dati sanitari cardiologici del soggetto. Ma soprattutto, proprio per questa iniziativa in cui noi crediamo, siamo riusciti a screenare più di 50.000 persone, molte delle quali abbiamo avuto la possibilità di contribuire a salvare la vita, perché dovete immaginare che quando un giovane fa uno screening e si accorge di avere una cardiopatia di cui non aveva assolutamente contezza, quello per noi è un obiettivo importante. Abbiamo raggiunto quel goal. Una vita vale più di qualunque altra cosa. Per partecipare a questo screening gratuito basta cliccare sul sito della Fondazione per il Tuo Cuore dei cardiologi ospedalieri italiani, www.peritocuore.it, e selezionare la propria regione per scoprire qual è la cardiologia più vicina e scegliere quella che fa gli screening piuttosto che quella che dove si svolgono dibattiti con gli esperti e attività di educazione sanitaria. Bene, per oggi è tutto. La programmazione di Radio 24 prosegue con Melog. Io vi aspetto tra pochissimo per la nostra diretta Facebook. Il tema è una bocca da bacio. A tra poco, una buona giornata e buon San Valentino da Nicoletta.